giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ampezzo accoglie il Presidente della Repubblica. Il lungo intervento di Mattarella ripercorre la storia della nascita e della fine della Repubblica della Carnia. Il Presidente Mattarella ha detto: la Repubblica riconosce nelle popolazioni della Carnia le radici della nostra Costituzione che alimentano la vita democratica. Dopo la cerimonia, la visita del Presidente alla mostra di Leggio, il paese dove Mattarella pranzerà, preparate per lui alcune specialità tipiche della Carnia. Verso un terzo processo per Paolo Calligaris, la Corte di Cassazione ha annullato per la sentenza per l'omicidio della compagna Tatiana Tulissi e rimandato a giudizio. Le interviste agli avvocati della difesa e di parte civile. Controllore di un autobus della Trieste Trasporti preso a pugni da un passeggero al quale aveva chiesto il biglietto. Indagini della polizia, i sindacati chiedono più sicurezza a bordo dei mezzi. Il 6,6% dei giovani in regione ha solo il diploma di terza media. È una delle percentuali più basse in Italia, l'indagine sul fenomeno della CGA di Mestre. Neodiplomati degli istituti tecnici superiori raccontano la loro esperienza nell'incontro sull'orientamento organizzato da Confindustria Udine. A Villa Manin questa sera festeggiamenti per i 50 anni di carriera di Dario Zampa, noto cantautore e friulano impegnato nella conservazione delle tradizioni e della lingua friulana. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. Alle 10.30 è dunque arrivato ad Ampezzo il Presidente della Repubblica, accolto da sventoli di bandiere e bambini delle scuole. Nella cerimonia per l'80° anniversario della Repubblica Partigiana della Carnia, gli interventi delle autorità, tra cui il Presidente della Regione e anche quello dell'ex partigiana Paola Del Din. Qui ad Ampezzo la Repubblica rende onore a quanti hanno contribuito alla causa della libertà animando le esperienze delle zone libere partigiane. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella ha parlato ad Ampezzo, dove si è ricordata la zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli, un territorio che per poco più di 2 mesi fu privo di milizie nazifasciste. Lì si sperimentò in anticipo la democrazia con elezioni aperte alle donne e un governo provvisorio composto da civili. L'8 ottobre del 1944 i nazisti avviarono un'operazione mirata a stroncare la zona libera, come effettivamente avvenne a ridosso del Natale dopo combattimenti, rastrellamenti e deportazioni. Il prezzo pagato dalla Carnia fu caro, morirono in 900, in maggioranza civili. La memoria di quei giorni, 80 anni fa, è stata rievocata nella cerimonia da chi ha parlato dal palco in una tenso struttura a protezione dal forte vento nel cuore di quella che è stata la capitale della zona libera, Ampezzo. Applausi scroscianti per il Presidente Mattarella al termine del suo discorso di circa 15 minuti, un excursus storico sugli anni della resistenza in cui è definito il fascismo e la Repubblica di Salò come complici della ferocia nazista. Applausi anche per Paola Del Din, 101 anni, la partigiana della Brigata Osoppo che ha ringraziato il Presidente Mattarella per la sua opera di ricucitura dell'Italia. Insieme a lei, tra il pubblico, alcuni dei pochi testimoni di allora ancora in vita. Dal palco il governatore Massimiliano Fedriga ha definito una parentesi di libertà in mezzo alla ferocia nazista l'esperienza della zona libera. Prima della cerimonia Mattarella ha deposto una corona di alloro al monumento ai caduti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Presidente della Repubblica dunque in un lungo intervento ha ripercorso gli orrori del 1944 e ha ricordato anche il ruolo delle donne protagoniste a tutti gli effetti della resistenza contro il nazifascismo. L'esperienza della Carnia, ha detto Mattarella, rappresenta un laboratorio di democrazia, ma sentiamo l'ultimo passaggio del suo intervento. L'Italia è orgogliosa del percorso compiuto in questi quasi 80 anni dalla liberazione. Oggi, come poc'anzi sottolineava il Presidente regionale dell'ANPI, le storie e memoria si incontrano con le contraddizioni e le sofferenze che accompagnano gli eventi bellici. La vocazione di pace del nostro Paese è segno che tutto questo non è passato invano. Oggi la Repubblica, qui in Friuli, riconosce in queste popolazioni, in Carnia, radici della nostra Costituzione, radici che alimentano la nostra vita democratica. Grazie alla Repubblica della Carnia e dell'Alto Friuli, grazie per quanto fatto allora, per quanto tramandato, per quanto conservato oggi. Viva l'Italia! Il Presidente della Repubblica poi si è spostato a Illeggio per visitare il paese e la Casa delle Esposizioni. Vediamo come il paese si è preparato per accogliere al meglio il Presidente Mattarella, compreso il pranzo a base ovviamente di prelibatezze del territorio. Il tricolore sventola dalle finestre delle abitazioni, nelle viuzze, dai muri in pietra di Illegio. Probabilmente un viavai così di persone, questo piccolo borgo della Carnia mai lo aveva visto prima. L'emozione per la visita del presidente Mattarella si respira nell'aria decisamente fresca di questo sabato in cui si celebrano i 20 anni di un piccolo grande miracolo d'arte, il progetto ambizioso nato nel 2004 di portare ad Illegio opere d'arte di altissimo valore. Oggi si contano 600.000 visitatori, 1.480 opere esposte in 20 edizioni, l'ultima quella in corso fino a novembre, che conta opere dal Perugino, da Caravaggio, Bernini, Kandinsky. Non a caso si intitola Il coraggio, e di coraggio ne abbiamo avuto tanto, ha dichiarato al nostro microfono Don Geretti, anima, cuore, motore delle mostre internazionali di questo ambizioso progetto di Illegio, paese di soli 350 abitanti che oggi sono tutti qui seduti sotto il tendone tra le autorità. La signora più anziana, Vilma, alla soglia dei 94 anni, come una ragazza giovane che ora vive a Milano e dice: quando dico di essere di Illegio tutti sanno che il mio è il borgo delle grandi mostre. Il presidente visita la mostra in forma privata, accompagnata dal parroco Don Alessio Geretti, abilissimo storyteller dell'arte, avrò l'onore di fargli da guida turistica, ci racconta, e poi partecipa alla cerimonia di commemorazione di questi 20 anni. Alle 13:15 è previsto il pranzo in un ristorante che conta una tradizione familiare di oltre 100 anni. Abbiamo incontrato lo chef, un giovane, Luca Scarsini, 26 anni, che ci racconta il menù. Ma i dettagli precisi non possiamo ancora dirli, ma comunque ci saranno dei piatti tipici basati sicuramente sul territorio, tra cui i chershons e il Talking Bride, che è una polentina tenera che viene prodotta con la farina di polenta di Illegio e macinata nel mulino del paese. L'orgoglio di avere qui il presidente, anche per lei così giovane, cucinare per il presidente, cosa vuol dire? Ma secondo me neanche ancora mi rendo conto dell'importanza di questa giornata, ma comunque ci comporteremo come facciamo sempre, siamo persone semplici e quindi tratteremo il presidente al meglio possibile. Illegio, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a Paolo Calligaris a 16 anni per l'omicidio della compagna Tatiana Tulissi, uccisa con 3 colpi di pistola nel 2008. Il caso è ora dunque rinviato alla Corte d'Assise di Venezia. Ci sarà un terzo processo, ma le motivazioni di questo rinvio non si conoscono ancora, si avranno solo fra qualche mese. Sentiamo l'avvocato di Calligaris, Rino Batocletti. L'esito è di accoglimento del nostro ricorso, riteniamo e ritenevamo che la sentenza fosse piena di travisamenti del fatto e delle prove, confidiamo che ora la Corte d'Assise di Venezia in sede di invio ponga fine con l'assoluzione di un innocente. Abbiamo definito la sentenza che abbiamo impugnato una sentenza suicida, e credo che questo abbia convinto la Corte di Cassazione. La difesa di parte civile, che rappresenta la famiglia di Tatiana Tulissi, precisa che la Cassazione non ha annullato la sentenza senza rinvio, invece ha deciso di rimandare l'imputato a un nuovo giudizio. Sentiamo allora l'avvocata Laura Luzzatto Guerrini. La famiglia della povera Tatiana Tulissi aspetta di sapere ormai da 16 anni chi ha ucciso la loro figlia. Di quanto si allunga ora la sentenza, avvocata? Penso che ci voglia qualche mese per il deposito delle motivazioni e poi bisognerà vedere i tempi in cui quali la Corte di Assise d'Appello di Venezia fisserà l'udienza. In genere decorrono anche lì, l'altra volta sono stati 6 mesi, possono essere 4, 6, 8 mesi, ecco, dipende quando sono le formazioni della Corte. Ecco, non si conoscono ancora le motivazioni, come diceva lei, bisogna aspettare, però non è molto usuale che un processo vada, per la terza volta, vada rifatto. No, non è molto usuale, ma può accadere. La Corte di Cassazione, in questo caso, non ha ritenuto di annullare la sentenza di condanna del GUP di Udine e della Corte d'Assise di Venezia. Non ha ritenuto di annullarla perché avrebbe potuto, in questo caso qui, annullandole, prosciogliere l'imputato dalle accuse. Questa decisione la Corte di Cassazione la poteva benissimo prendere ieri. Come stanno i familiari, li ha sentiti? I familiari hanno preso la notizia ed erano ben consci che ci poteva essere anche un proscioglimento, diciamo, dell'imputato, cosa che invece la Corte di Cassazione non ha ritenuto di fare. Ancora un'aggressione ai danni di un controllore della Trieste Trasporti. Ieri a bordo della linea 20 un 37enne avrebbe preso a pugni il controllore nel momento in cui questi gli ha chiesto il biglietto. La vittima, 41 anni, ferito e scioccato, ha ricevuto una prognosi di 8 giorni. L'aggressore è stato individuato, portato in questura ed è ferito all'autorità giudiziaria. Si tratta di un senza fissa dimora in Italia da molti anni, ma di origini straniere. La polizia sta indagando per accertare come siano andati i fatti, avvalendosi anche delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Antonio Pittelli, segretario generale regionale della FIT CISL, chiede più tutele per utenti e lavoratori. È l'ennesimo caso di violenza a bordo di mezzi pubblici, dice. Servono strumenti per la protezione dell'autista e dei controllori, serve una maggiore presenza delle forze dell'ordine, ma soprattutto servono protocolli della prefettura e non solo aziendali più stringenti per stabilire chi chiamare e come reagire in queste situazioni. Passiamo al meteo. Il cielo è da coperto a variabile sulla regione. Le temperature registrate alle 11 danno a Trieste 17 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 24, a Gorizia 17 gradi, Pordenone e Udine 16, a Tolmezzo 15, Forni di Sopra 13, a Tarvisio 12 gradi, Piancavallo 10 e a Sappada 9. Sul Monte Zoncolan 5 gradi e mezzo e sul Monte Lussari 4. A Grado 17 con una temperatura del mare di 22, a Lignano 16 gradi e mezzo e la temperatura del mare è di 20 gradi. Le previsioni dell'ARPA: questo pomeriggio avremo un cielo in prevalenza nuvoloso o coperto con possibili deboli piogge sparse, più probabili a est. Sui monti in quota soffierà vento forte da nord, le temperature medie saranno circa 5 gradi inferiori alla norma, specie a causa delle massime decisamente basse per il periodo. Domani nuvolosità variabile, sui monti in quota soffierà ancora vento sostenuto da nord, temperature ancora sotto la norma del periodo. Domani è il Tomorrow Day Festival a Trieste, ospite speciale il trapper Tony F, noto anche alla cronaca giudiziaria per le numerose risse di cui è stato protagonista negli ultimi 3 anni. L'evento è gratuito grazie agli 80.000 euro messi a disposizione da Promoturismo, a cui si aggiungono i 10.000 euro di contributo della Fondazione CR Trieste. La scelta di finanziare con fondi della regione questo concerto è stata contestata dal Codacons, dalla consigliera regionale Giulia Mussolino e dalla Commissione regionale per le pari opportunità, che definisce i testi di Tony F violenti contro le donne ed agghiaccianti. Eppure, nelle intenzioni dichiarate dagli organizzatori, che sono il Comune di Trieste, una neonata società di studenti liceali e una poca nota associazione di promozione sociale La Via di Terzo d'Aquileia, l'obiettivo dell'evento è proprio quello di sensibilizzare contro la violenza di genere. Il festival si svolge nel piazzale antistante i magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio. Inizierà alle 10 con uno stage di arti marziali dedicato alla difesa personale femminile. I maschi, così si legge nel decreto del direttore regionale di Promoturismo, correranno attorno al palco principale in circuiti di allenamento a corpo libero, poiché la sicurezza personale non è solo cosa da donne. Seguirà poi uno stage di box con il campione Luca Chiancone. Alle 20.30 si esibiranno alcuni musicisti locali emergenti e a seguire Tony F. In regione 5.000 giovani fra i 18 e i 24 anni si sono fermati alla terza media. È una delle percentuali più basse in Italia. Sentiamo che cosa emerge da una ricerca della CGA di Mestre resa pubblica questa mattina. L'Istat fotografa il problema della povertà educativa intervistando annualmente un campione di giovani tra i 18 e i 24 anni e contando quanti di loro non sono andati oltre il diploma di terza media. Una fotografia che avviene quando il problema si è già manifestato, ma che rimane un indicatore interessante della condizione sociale. L'indagine effettuata nel 2023 ci dice che il 6,6% dei giovani in quella fascia di età, dopo la terza media, non ha completato la scuola superiore e non ha conseguito un diploma professionale. È una delle percentuali più basse in Italia, inferiore rispetto a Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana. Comunque ci sono 5.000 giovani tra i 18 e i 24 anni che si sono fermati alla terza media, come evidenzia uno studio della CGIA di Mestre. E secondo il coordinatore Paolo Zabeo, si tratta di giovani che avranno difficoltà nel mercato del lavoro. È evidente che nei prossimi anni questi ragazzi faranno molta fatica a trovare un'occupazione di qualità e adeguatamente retribuita, mettendo in difficoltà anche le piccole imprese, che tra declino demografico e lavoratori con un basso livello di istruzione faticheranno non poco a trovare personale altamente specializzato. Zabeo sottolinea il ruolo svolto da alcuni istituti di formazione professionale per contrastare il fenomeno della povertà educativa e della dispersione scolastica, realtà che andrebbero sostenute con maggiori risorse, sostiene la CGIA. Ma in Friuli Venezia Giulia emerge anche un altro dato. Gli studenti degli istituti professionali sono pochi, il 14,3% rispetto al totale delle scuole superiori. Solo Abruzzo e Lazio contano percentuali inferiori, mentre è molto elevata l'incidenza degli istituti tecnici, oltre il 37%, secondi solo al Veneto. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. La carenza di autisti anche in regione sta creando tensioni nel comparto dell'autotrasporto merci, con le aziende costrette anche a ricorrere ad autisti già in pensione che puntano a integrare pensioni basse o a personale interinale straniero che mira invece ad uno stipendio più alto. Da un anno alle prese con la carenza di autisti, Rosario Balsamo ha dovuto ricorrere ai suoi ex dipendenti già pensionati, oltre all'agenzia interinali estere, per trovarli e mandare avanti la sua attività sul mercato da circa 10 anni. 50 occupati dalla sua sede di Roveredo in Piano fa consegne a corto e lungo raggio con furgoni e camion. Abbiamo dovuto ricorrere a dei nostri autisti che sono andati in pensione, 4 autisti over 60, e in più abbiamo dovuto ricorrere a un'agenzia rumena interinale per appunto il trasporto di merce pesante. Ad oggi ne abbiamo 4, loro sono anche più disponibili secondo me a rimanere fuori il weekend, perché comunque non avendo famiglia rispetto all'italiano non gli cambia nulla. Tra gli ex dipendenti già in pensione che ha richiamato al lavoro a tempo pieno, Livio, 67 anni. Sono andato in pensione il 1° febbraio di quest'anno e il 19 l'azienda mi ha richiamato per poter riprendere l'attività che svolgevo prima. Non ho avuto difficoltà ad accettare, in quanto da parecchi anni lavoro per questa azienda e mi sono sempre trovato bene. Per di più, con la pensione che ricevo, non è che possa fare i salti di gioia e di conseguenza ho bisogno comunque di continuare a svolgere un po' di attività. 1.600 euro il suo stipendio da pensionato, a 950 euro al mese. Qualcosa in più guadagna Silvano, pensionato di 63 anni, lavorando invece a chiamata nel trasporto merci notturno. Bisogna lavorare di notte. E i giovani non ci sono. Non le pesa? No, lavoro dalle 4 alle 9 e mezza. Prendo 1.400-1.500. Fino a quando è disposto? Finché me la sento. E per le emergenze, all'occorrenza c'è perfino l'autista decano Virginio, 83 anni con la minima e la patente CQC appena rinnovata. I giovani purtroppo non vengono a lavorare volentieri. Diciamo che restiamo noi e ci va bene continuare a lavorare. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Inizia la stagione dell'orientamento post esame di maturità. Confindustria Udine ha organizzato un incontro con i neodiplomati degli istituti tecnici superiori. Presente l'assessora all'istruzione Alessia Rosolen. Il racconto di Sara Marchi, diplomata con 100 e lode, che ha già trovato lavoro. Che indirizzo hai fatto e cosa hai studiato? Allora, io esco dal corso di studi di arredamento di interni di nautico, navale e dell'hospitality del corso ITS appunto qua a Udine. Perché hai scelto questo indirizzo? Diciamo che sono sempre stata fin da piccola comunque molto appassionata ad ambienti, a temi come il mare, la nautica, soprattutto anche da... mi è stato tramandato da mio nonno che avevamo una barca, e quindi comunque sono sempre stata legata fin da quando ero piccola piccola. Tu sei uno delle eccellenze, quanto hai preso? 100 e lode. E sei anche uno di quelli che hanno trovato subito lavoro, dove? Assolutamente sì, adesso sono presso alla sede di Marghera di Fincantieri e sono supervisore di bordo. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Villa Manin questa sera si festeggiano i 50 anni di carriera discografica di Dario Zampa, che stiamo ascoltando, noto cantautore friulano molto impegnato nella conservazione delle tradizioni e della lingua friulana, con una serata gratuita tra musica e parole dove si alterneranno i suoi brani più amati, racconti e riflessioni personali. Il suo nuovo spettacolo O Blanco Neri Basta che al Sedi Bon ripercorre la sua carriera artistica. Ad accompagnare Dario Zampa sul palco ci saranno Omar Malisan alla chitarra, Andrea Grosso al basso, Nicola Masolini alle percussioni e Grazia Rapetti come corista. Vi saranno inoltre le partecipazioni straordinarie del fisarmonicista Sebastiano Zorza e dello storico Angelo Floramo. Finisce qui questa edizione del giornale Radio Regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. In regia, per la parte tecnica, Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.